Comunque, niente, riprendiamo la nostra discussione che avremmo dovuto fare un mesetto fa, poi questo incontro appunto con Enrichetta Di Mena, Matteo Schianchi, Andrei Ciachine, poi ci sarà anche Valentina Perniciaro che c'era invece nel dibattito della domenica 12 febbraio, mi sembra. Invece quella del sabato era saltata perché era in concomitanza con una manifestazione abbastanza importante, insomma, per Alfredo Cospito. Niente, questa è un'iniziativa che fa parte appunto di quello che abbiamo chiamato il Disability Festival, quindi dedicato a questa questione, alle persone con disabilità, a riprendere un po' il filo di un ragionamento che in realtà qualche anno fa avevamo abbozzato più nell'ambito del Free Festival dei bambini e delle bambine. Questa volta abbiamo voluto proprio fare un discorso specifico. La giornata di oggi appunto ha un taglio di carattere storico, nel senso che andremo un po' a vedere come nasce negli anni 60-70 il movimento delle persone con disabilità, insieme a Enrichetta Limena, che ha scritto un interessantissimo testo, tra l'altro, che si chiama Lotta per l'inclusione, il movimento delle persone con disabilità motorie dagli anni 70 a oggi. Poi c'è Andrei con noi, che è appunto dei disabili pirata, e Matteo Schianchi, che è storico, lavora per la Leda, e poi Valentina Perniciaro, che era già stata con noi, Della appunto. Fondazione Tetrabondi. Ah, sì, giusto, che fa parte della Fondazione di Tetrabondi e che ha pubblicato un libro, Ognuno ride a modo suo, che è quello di cui abbiamo un po' parlato la volta scorsa. Non aggiungerei molto altro, anzi, passerei direttamente la parola a Enrichetta, proprio che magari ci riparte un po' dai temi del suo testo, del suo libro, e ci fa un po' un inquadramento storico delle origini del movimento. Prego, Sì, Enrichetta. sì, buonasera a tutti, saluto chi è in sala. Mi dispiace non essere con voi, ma tra l'altro in questi giorni qui giù a Cosenza, insomma, a livello meteorologico non stiamo messi bene, anzi ci sono stati anche dei danni per il maltempo, ma ce la facciamo. E allora, il mio testo, appunto, che si chiama Lotta per l'inclusione, il movimento delle persone con disabilità negli anni 70, voleva essere un primo testo che appunto raccontasse le origini delle lotte delle persone con disabilità, perché anche studiando in università, alla Sapienza, materie storiche, mi ero resa conto di quanto la storia delle persone con disabilità non fosse presente nei piani di studi, non c'era una presenza sia a livello accademico, sia forse c'è anche una poca, diciamo, consapevolezza della storia. Di quello che è stato il movimento. E quindi il mio è stato un tentativo di iniziare un po' a dare il mio contributo in questo percorso. E in realtà, se vogliamo partire dall'inizio, la cosa che mi aveva stupito era che la prima legge organica sul collocamento obbligatorio, il collocamento mirato, quello che oggi si chiama collocamento mirato, è proprio del 68, quindi dell'anno più studiato dagli storici. Ma si parla sempre di lotte studentesche, delle lotte delle donne, delle lotte operaie. Di tutta una forza a livello sociale che si faceva strada, ma del movimento delle persone con disabilità sembrava non essercene quasi traccia. unici lavori appunto a livello storico sul movimento delle persone con disabilità che avevo intercettato erano quelli di Matteo Schianchi. Però il mio è stato proprio un lavoro specifico su quegli anni che vanno dal 68 al 77, proprio perché sono stati anni appunto molto studiati, analizzati, perché appunto anche molto importanti, perché sappiamo, sono stati gli anni di piombo in cui comunque lo scontro sociale è stato forte. Però di queste persone con disabilità sembrava non essercene traccia. In realtà io nel libro racconto che questo movimento era in realtà molto presente. Ci sono state importanti manifestazioni anche proprio accanto alle istituzioni, quindi al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio, per esempio, per appunto l'approvazione nel 68 della legge sul collocamento obbligatorio. Ricordo le manifestazioni dell'AMNIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Ovviamente erano delle manifestazioni diverse da quelle che facciamo oggi noi come attivisti. Come quelle che facciamo io, Andrei, Valentina e gli altri, perché ovviamente la visione della disabilità in quell'epoca era completamente diversa da quella che abbiamo noi oggi, ma perché eravamo all'inizio, eravamo proprio ai primordi di quella che è stata il movimento e la consapevolezza di far parte, di voler far parte di quella società. Quindi quella dell'epoca era, quella degli anni 70, una visione fortemente paternalistica, pietistica. Questo si nota anche dalle foto, che alcune le ho inserite anche nel libro, in cui proprio le persone che manifestano hanno un atteggiamento appunto pietistico di richiesta verso le istituzioni, eccetera. Una visione che ovviamente oggi noi respingiamo con forza, ovviamente, però è stato l'inizio di una presa di coscienza. È una parola forte, mi rendo conto, però uscire per le strade a rivendicare comunque un bisogno, a dire noi ci siamo, è stato comunque, secondo me, un passaggio importante di cui bisogna avere consapevolezza e coscienza, perché voglio dire, il movimento delle persone con disabilità è stato uno dei tanti movimenti sociali che ha iniziato a svilupparsi proprio in quegli anni. Tra l'altro, visto che siamo vicini alla festa delle donne che si è festeggiata l'8 marzo, volevo anche ricordare che ci sono anche delle donne importanti per il movimento. Io in particolare nel libro parlo di Teresa Serra, che è stata presidente dell'AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici, che fu la prima a parlare della riabilitazione per tutti i bambini, i ragazzi e adulti con disabilità, a dire che per tutti c'era una possibilità di vita e che nessuno era irrecuperabile. Una cosa che all'epoca, per l'epoca, è rivoluzionaria, perché appunto all'epoca c'era chi diceva queste sono persone che hanno disabilità troppo, troppo gravi, troppo complesse, e noi non ce ne possiamo occupare. Questo lo testimoniano i giornali, lo testimoniano appunto i documenti dell'AIAS. E Teresa Serra su questo si batte, scrivendo appunto per esempio un articolo dove dice la scienza non si arrende, non si arrende neanche di fronte a disabilità molto, molto complesse. Quindi questo penso sia un punto importante, importante anche oggi, perché è vero che tanto è stato fatto, quello che noi facciamo oggi lo testimonia nel lavoro, nella vita sociale, però è anche vero, poi su questo ci possiamo dibattere, che in qualche modo abbiamo sdoganato, tra virgolette, abbiamo lottato, ma sulle disabilità complesse, sulle disabilità cognitive, per esempio, c'è ancora molto da fare. L'episodio recente del Trentino, del ragazzo con disabilità appunto cognitiva, a cui è stata negata la possibilità di mangiare insieme alle altre persone, è stato invitato a spostarsi in un'altra sala. Tra l'altro, mi sembra di aver letto con i vetri oscurati, cose veramente non da anni 70, da Medioevo, mi viene da dire. E, insomma, ci dice che c'è ancora tanto da fare. Poi, insomma, gli episodi appunto anche a livello di comunicazione, anche di recente, sono importanti e ci devono far riflettere. E per restare sull'impegno dell'AIAS, Teresa Serra fu una delle prime a parlare di integrazione scolastica, quella che oggi noi chiamiamo inclusione scolastica, cioè a volere i bambini e i ragazzi nelle scuole, promosse le sperimentazioni, perché questo accadesse all'interno delle scuole. E grazie a queste sperimentazioni poi fu scritta la relazione Falcucci, che inserisce tutta una serie di figure all'interno dell'ambiente scolastico, quindi dall'insegnante di sostegno, lo psicologo, il pedagogista o la pedagogista, e tutta una serie di figure che ruotano intorno all'alunno, allo studente con disabilità. Io tra l'altro adesso parlo ovviamente di studenti, studentesse con disabilità. All'epoca si chiamavano handicappati, si chiamavano subnormali, quindi ovviamente queste rivoluzioni le dobbiamo sempre vedere in quell'ambiente storico. Però appunto sono delle piccole e grandi rivoluzioni che piano piano ci hanno portato ad oggi. Teresa Serra, per esempio, è stata una di quelle che ha parlato per la prima volta di scambi internazionali per le persone con disabilità, per i ragazzi con disabilità. Una cosa, se ci pensiamo, rivoluzionaria, perché anche oggi, cioè, viaggiare non è semplice per chi ha una disabilità. Io stessa, che ho fatto le scuole negli anni 2000, ho avuto difficoltà quando dovevo partecipare a scambi internazionali e mi è stato detto: no, tu non puoi partire perché non hai un accompagnatore. Quindi o parti con tua madre oppure non te ne fa niente. Tanto è vero che in quel caso io non sono partita. In quel caso dovevo andare in Olanda, però poi da lì ho cominciato appunto a fare attivismo e a partecipare a scambi internazionali in cui il tema era proprio quello del turismo per tutti. Vabbè, poi ho continuato a viaggiare, a volte mi sono trovata meglio, alcune volte peggio, però appunto il problema esiste ancora perché comunque insomma, inclusione vuol dire mettersi anche alla prova, vuol dire mettersi in discussione, non sempre è facile, non sempre si è pronti, non sempre l'ambiente è pronto ad accogliere le diverse condizioni. E quindi io penso che i semi, diciamo, i germi di quella grande rivoluzione ci sono ancora oggi, anche se insomma c'è tanto, tanto ancora da fare. Se volete, posso tornare per esempio al tema della scuola. Che è un tema che adesso sto affrontando anche in modo più specifico, partecipando essendo docente di laboratorio per il TFA, quindi per chi si sta preparando per essere un insegnante di sostegno. E vedo che appunto ancora oggi c'è veramente tanto lavoro da fare. Se pensiamo che per esempio le materie diciamo, scolastiche che oggi noi conosciamo, come l'educazione musicale, l'educazione artistica, eccetera, sono state inserite inizialmente nei piani di studio proprio per supportare i ragazzi con disabilità. Ovviamente il passaggio, se continuiamo sul tema scuola, dalle scuole speciali e differenziali alla scuola inclusiva non è stato facile. In realtà nella relazione Falcucci e nella legge del 77 in realtà non si parla ancora di totale inclusione, si parla di inclusione quando è possibile, però ovviamente, come si dice, da qualche parte bisogna pure iniziare. Io ecco, non vorrei essere troppo raccontare quegli anni in modo, diciamo, troppo rivoluzionario, però credo che appunto quei germi di rivoluzione debbano essere visti, perché quelli che manifestarono all'epoca erano davvero tanti, soprattutto a Roma ovviamente, quindi accanto ai palazzi delle istituzioni, al Parlamento, nei palazzi del governo, ed erano appunto veramente tanti. E se pensiamo a quelli che erano all'epoca i problemi per le persone con disabilità, banalmente per le barriere architettoniche, ci rendiamo conto di quanto questo fosse rivoluzionario. E se io penso alle manifestazioni che sono state fatte per le strade di Roma, al centro di Roma, per i centri AIAS, per i centri di riabilitazione AIAS, che quindi non dovevano essere più, diciamo, dei centri di riabilitazione dove la sola responsabilità era dell'associazione, ma diventava un qualcosa di cui si faceva carico lo Stato nel suo insieme, capiamo la portata rivoluzionaria di tutto questo. Tant'è vero che questo poi è rientrato in quella che è il Servizio Sanitario Nazionale del 78. appunto manifestare all'epoca non era facile. Lo si faceva, lo ricordo sempre, con quella visione di Alvito Lambrilli, che era presidente AMNIC, è stato presidente AMNIC per decenni. La sua visione era quella delle persone che portavano su di loro i segni come se fossero dei segni divini, quindi c'era sempre quella visione dell'handicappato, come si diceva allora, che porta su di sé i segni come se fosse qualcosa di divino, e quindi ha la forza di poter portare quel peso. Ovviamente, ripeto, è una visione che io e tutti noi respingiamo, però è stato l'inizio di un cammino concretamente fatto. Consideriamo che all'epoca, anche a livello istituzionale, c'era una completa ignoranza del tema, e questo si vede anche negli atti parlamentari che io ho letto, in cui i parlamentari appunto ammettevano la loro piena ignoranza sul tema e in qualche modo facevano fare alle associazioni. Spesso le associazioni scrivevano proprio le leggi per il Parlamento italiano, perché di questo tema erano completamente digiuni. Questo si vede, per esempio, nella legge sull'invalidità civile del 1971, una legge che riprende quasi in toto una proposta di legge fatta dall'AIAS, in cui si parlava appunto dei centri di riabilitazione per tutti, si parlava di abbattimento delle barriere architettoniche, almeno nei luoghi pubblici, anche se il primo regolamento risale al 68. La legge del 71 è quella in cui si parla anche di eliminazione delle scuole speciali. Ed è tutta un'altra serie di appunto passi in avanti per le persone con disabilità. È stata una cosa fatta appunto grazie alla collaborazione, diciamo, fra istituzioni e associazioni, società civile, perché sicuramente se non ci fosse stato un movimento dal basso, se le persone non fossero uscite di casa, non sarebbe sicuramente cambiato nulla. Non sarebbe cambiato nulla nelle scuole, per esempio, nelle strade. Io nel libro racconto la testimonianza di un ragazzo che andava a scuola negli anni 70 e racconta senza, diciamo, timore il suo modo per uscire di casa, il fatto che si aggrappasse alla ringhiera per uscire di casa, il fatto che lui stesso diceva: se uscirete con me, sapete già che diciamo, il passo sarà diverso, sarà più lento. Quindi è stata una presa di coscienza lenta, molto lenta, possiamo dire. Tra l'altro, quello che io racconto nel libro, si lega anche a quello che succedeva all'estero, in Inghilterra, in America. Voi dopo vedrete Crip Camp, che è questo film che racconta il movimento delle persone con disabilità negli Stati Uniti. Tra l'altro, di recente è scomparsa una delle attiviste che negli anni 70 a Berkeley ha lottato perché le persone con disabilità potessero studiare, potessero avere una vita indipendente in America. Judith, che appunto fece questa lotta molto aspra e si scontrò anche appunto con le istituzioni americane su questo. Diciamo, quello che ho voluto fare io è iniziare a raccontare il nostro Grip Camp, una cosa abbastanza complicata perché mi sentite? No, di Creep Camp. Sì. Sì. Siamo arrivati lì a Creep Camp italiano. Sì, ho perso il collegamento, scusate. Sì, no, dicevo che appunto il mio libro vuole essere il racconto del nostro Grip Camp, diciamo. Un racconto che è solo l'inizio perché ci sono tanti archivi delle associazioni da scoprire ancora. Io in particolare ne ho visti due archivi in particolare, ma ce ne sarebbero tanti altri. E poi un'altra cosa importante da dire è che all'epoca anche la stampa sui temi della disabilità era abbastanza ignara del tema, nel senso che io sfrucciando i giornali dell'epoca, i più importanti, ho visto che in realtà l'unico giornale che un po' lo toccava, ogni tanto intercettava qualche notizia, era l'Unità. Però, a parte quello, c'era veramente poco. E potremmo discutere sul fatto che anche adesso abbiamo lo stesso problema. Insomma, comunque i media hanno le loro difficoltà. Però ecco. E se io devo parlare di un giornale che si è occupato del tema, l'unico giornale che posso indicare è l'Unità. Anche se resto ancora stupita del fatto che se io oggi parlo con attiviste dell'epoca, che hanno appunto combattuto per i diritti delle donne, eccetera, eccetera, non li sento mai appunto parlare delle persone con disabilità, non lo hanno intercettato, è stata comunque una lotta, una battaglia fatta un po' in modo separato e diciamo i vari mondi non si sono in realtà toccati. Per quanto riguarda il movimento delle donne con disabilità, diciamo che almeno in Italia è una cosa che è venuta fuori un po' dopo rispetto agli altri paesi. Quindi forse anche per questo non c'è stata una unione con il femminismo tout court. Sicuramente fare una lotta a livello unitario, sincretico, non è semplice, non è semplice neanche oggi. Ancora meno lo era all'epoca, lo era negli anni 70, quando forse ancora più di oggi manifestare per chi aveva una disabilità era davvero rivoluzionario, perché le prime persone a vergognarsi della propria disabilità erano le stesse persone con disabilità, i genitori. E quindi sicuramente lo stigma era di molto superiore a quello che oggi noi sentiamo. Appunto, soltanto il discorso sulle parole ce lo fa capire. Se si doveva definire una persona con disabilità, lo si faceva legandola solo e esclusivamente alla patologia. Quello imperante era il modello medico. Quello che si faceva era semplicemente chiudere le persone nei centri, tranne, diciamo, poche eccezioni. Quindi, se vogliamo, la rivoluzione dell'epoca è stata una rivoluzione anche più forte di quella di oggi, proprio perché le condizioni di partenza erano ancora più difficili. Se noi pensiamo alle lotte che si fecero appunto negli anni 70 in Toscana per una vita più autonoma, in Toscana fu proprio una donna ad essere la prima donna a guidare un'auto, la prima donna con disabilità, di cui ora mi sfugge il nome, ma spero mi verrà in mente a brevissimo. Quindi, appunto, il mio libro voleva essere anche un incoraggiamento, un monito anche al mondo accademico ad interessarsi maggiormente a questi temi. Ricordo che il mio libro nasce da una tesi di laurea e vi posso assicurare che trovare diciamo, un professore che conoscesse questi temi all'Università La Sapienza non è stato semplice. Io ho potuto fare questa ricerca con il supporto di quella che era la mia relatrice, Lidia Piccioni, ma che appunto non aveva mai incrociato questo tema, pur occupandosi di storia urbana. E io, tra l'altro, quando ho iniziato a scrivere questo libro, ho incontrato Gian Piero Griffo, che è un attivista appunto di lungo corso, tra quelli che ha scritto la Convenzione ONU. Che ha partecipato alle lotte di quegli anni, e lui stesso mi raccontava la difficoltà di inserire storicamente questi temi, di storicizzare il movimento, proprio perché non c'è una consapevolezza della storia, sia da parte di chi oggi si occupa di questi temi, sia da parte delle associazioni che spesso hanno i documenti, hanno negli archivi testimonianza di quelle lotte, di quelle battaglie, ma non ne sono consapevoli. Io ho trovato il mio materiale, si può dire, quasi per caso, ma diciamo non c'era anche all'interno delle associazioni tutta questa consapevolezza. consapevolezza, creiamola, direi, creiamola sta consapevolezza. Che poi il discorso sulla consapevolezza storica è un discorso complicato che riguarda un po' tutta la nostra storia, ma penso che per le persone con disabilità questo sia doppiamente vero. Dai, però Non so non se... spoileriamo tutto il libro, però, sennò qua così. Fai un infatti, po' di marketing, di poi... promozione marketing qua alle persone, perché purtroppo non sei fisicamente qua con noi, quindi spiegale anche dove possono andare a scaricare in digitale questo libro, che comunque è un frutto dei tuoi studi, Erichetta. Sì, allora il libro lo potete scaricare sul sito di Ericsson, fa parte della collana Ericsson Live, quindi è scaricabile in ebook gratuitamente, basta iscriversi sul sito, oppure è ordinabile in libreria attraverso un numero appunto, che è segnalato sul sito. Però appunto non voglio spoilerare tutto. Sì, magari poi tanto ritorniamo anche se c'è un secondo giro di... No, volevo dire una cosa di servizio che non ho detto per la fretta prima, che finito il dibattito, chi vuole si magna insieme, stanno cucinando di là, e poi ci sarà anche il film, come ha accennato Enrichetta, Creep Camp. E niente, io ti ringrazio intanto, poi naturalmente resti ancora collegata, che magari la chiacchierata prosegue. Con domande. Direi Io non so, io ho parlato un po' a braccio, no, quindi ma non va so se bene, non... ma anche perché così è una chiacchierata, diciamo, anche abbastanza, malgrado la distanza fisica, però abbastanza informale, insomma. E io volevo dire anche che magari, visto che Valentina non sa quanto potrà restare collegata, quando vuole, se vuole già dire qualcosa o così. Ma io intanto vi ascolto, nel senso che ovviamente non mi sono mai occupata, come ha fatto Enrichetta, come non ho capito se poi Matteo Schianchi è presente, insomma, chi Sì, ci può lui dare un c'è. quadro? Lui è qua con noi. No, perché io vedo solo un pezzetto della sala e quindi sicuramente sono più interessata intanto ad ascoltare, no? Un quadro storico su quello che è stata comunque un percorso rivoluzionario sconosciuto, è quello che più volte usciva dalle parole di Enrichetta, è comunque la marginalità, no? Anche nel racconto e nel vissuto di chi ha lottato in quegli anni di determinate istanze, una marginalità che troviamo ancora oggi nel 2023, no? Quindi anche se è completamente cambiato fortunatamente un contesto culturale sulle diversità e su alcuni tipi di disabilità. C'è uno stigma e una quantità di pregiudizi su, no, l'aspetto cognitivo, l'aspetto psichiatrico, l'aspetto sensoriale. Insomma, si è cominciato negli ultimi 10 anni a sbloccare un immaginario almeno sulla disabilità motoria, sul diritto all'accessibilità dei luoghi. Quindi cambiano tante cose, le poche parole, perché se ne potrebbe parlare per ore, no? Che ha accennato Enrichetta sulla scuola, sull'unica scuola d'Europa che è realmente inclusiva, che non ha scuole speciali, che non, no? Che non fa una divisione netta tra i bambini normali che frequentano le scuole normali e quelli che venivano ghettizzati in altri tipi di istituzioni e che invece noi viviamo l'unica esperienza reale, concreta, di un processo di inclusione che appunto è partito da quegli anni e deve ancora totalmente essere scritto. Le figure che vi raccontava Enrichetta sono un quinto delle figure che attualmente pretendiamo accanto ai nostri figli, agli assistenti alla comunicazione. No, ci stanno ovviamente dei mondi che fortunatamente si ampliano, che hanno la possibilità di giocare facile perché abbiamo appunto delle leggi, al contrario veramente di tutti gli altri paesi europei, che ci permettono comunque di immaginare i bambini tutti insieme. Ci siamo detti anche l'altra volta, quando ho avuto insomma la fortuna di stare lì in presenza con voi, quanto poi questo nella vita di una persona, lo sapete meglio di me, fate l'età media di quelli che sono in sala e siamo qui, quanto poi la scuola è un pezzettino della vita di ognuno di noi. e non la vita intera, e invece poi nella società attuale la rivoluzione fatta poi non porta comunque a un concetto sui corpi non conformi di vita indipendente, di adultizzazione, di uscita dalla continua infantilizzazione, no? Quindi c'è la scuola e poi purtroppo ancora per le disabilità più complesse c'è la segregazione. Insomma, io sono la mamma di un bambino complesso, pieno di ausili, che in teoria è destinato a non si sa, insomma, all'istituzionalizzazione nel suo futuro, perché poi il panorama ancora attuale di quello che abbiamo sul concetto di vita indipendente, di autodeterminazione dei corpi e delle menti non conformi, siamo insomma in alto mare, quindi in questo non mi taccio, nel senso che preferisco stare ad ascoltare poi il tutto quello che c'è invece da il Crip Camp, che appunto dobbiamo vedere realmente è quello che dobbiamo fare ancora, quindi anche riscrivere, perché quello che ci ricordava Enrichetta, insomma, era anche la vergogna, no? Questo stigma continuo sui corpi, che ancora, ragazzi, noi ci chiamiamo Disability Pride, ma raccontare l'orgoglio della non conformità è ancora surreale, è ancora un percorso complicatissimo, ancora ti trovi in un terreno assolutamente non fertile, incapace poi di comprendere le situazioni più complesse. Non so se mi sono frizzata, mi vedo lei. No, comprendere il diritto a un livello di assistenza che deve crescere come cresce nella società la presenza delle persone con disabilità, quindi il diritto all'assistenza, il diritto alla fruizione di ogni spazio e luogo, il diritto anche alla presenza di tutto quello che è il mondo sensoriale. Sordi e ciechi non li vediamo mai, non li abbiamo penso in sala, siamo abituati a dare per scontato che siano, no? Sempre intere, immense comunità a noi sconosciute, al mondo sconosciute, quindi poi la mescolanza vera dei corpi che può creare solo l'orgoglio di quel che ognuno è nell'essere, no, insieme agli altri, nella collettività, è tutta da scrivere, il futuro libro di Enrichetta che ci dobbiamo sbrigare a costruire, perché poi gli studiosi ne scrivano, e insomma, quindi è interessante che si cominci a parlare in ogni luogo, no, di queste istanze che appunto hanno visto i loro pezzettini e non ne esiste neanche una storia, la capacità di raccontarli al meglio, perché il lavoro che ha fatto Schianchi, insomma, che è praticamente l'unico in Italia ad aver scritto, ad aver approfondito, ad aver essere entrato nel dettaglio anche filosofico di quello che è l'approccio di ognuno di noi, proprio ognuno di noi, no? Con la malformazione, la deformazione, la diversità fisica e mentale, che è ancora tutto un mondo da fare. Appunto Enrichetta raccontava, insomma, non esiste una bibliografia, una storiografia, non esistono archivi, non esiste, no? Sono vite marginali che anche nella lotta, insomma, sono rimaste non osservate, mai focalizzate. Bisogna, lo dico da caregiver, insomma, abbiamo aggiunto anche altri elementi. Prima appunto erano gli handicappati e adesso siamo le famiglie, siamo i corpi in tutti i sensi, nel senso che cominciamo a raccontare che la disabilità, no, colpisce un intero nucleo familiare, va presa in carico un'intera quantità di persone intorno al percorso di cura che dovrebbe essere collettivo, insomma è ora che la società prenda in considerazione, no? Tutto quello che ruota poi intorno alle persone con disabilità più o meno complessa. Quindi insomma è bello che cominciamo a raccontarcelo, a entrare in ogni spazio con le vulnerabilità tutte, a trattare la disabilità, che ancora ne siamo veramente lontani, al di fuori di tante porte, come una delle tante caratteristiche dell'essere umano, che confidenza, e immaginarla ovunque e quindi nelle lotte, che invece è un qualcosa, è un salto ancora più incomprensibile per tanti e che dobbiamo fare in modo che diventi tessuto sociale e insomma, e possibilmente di movimento, insomma. Mi taccio. Okay. No, grazie del contributo. Facciamo... Storici, no, no. Io, attivisti. Io direi completiamo il quadro dell'attivismo con l'attivismo più... contemporaneo, insomma, del movimento che si sta sviluppando adesso, che si è visto con il Disability Pride, cominciato a vedersi con il Disability Pride dell'estate scorsa, e quindi ti lascio il microfono. Grazie a tutti quanti, insomma, grazie per questa iniziativa, per questa occasione che oggi il Conchetta ha organizzato, insomma la libreria Carusca appunto ha organizzato lo spazio, ha, appunto, cioè abbiamo uno spazio accessibile con un bagno, insomma, una possibilità per parlare di questa tematica importante che è, insomma, la disabilità nella storia, insomma, ma anche un po' storia, diciamo, sia quella degli anni 60-70, come prima ci ha raccontato Enrichetta Alimena con il suo manoscritto, che invito a leggere assolutamente. Io ho una copia a casa, penso anche firmata e autografata, e la dovete scaricare assolutamente, perché personalmente, ad esempio, mi ha fatto pensare molto. A me piace la storia già da quando studiavo. Mi presento, io sono Andrei Chaikin, dei disabili fondatore del movimento delle persone con disabilità che si chiama Disabili Pirata. Sono presidente dell'associazione Abbatti le Barriere. Perdo, porca miseria, che stavo dicendo? Che appunto rompiamo le scatole. E leggendo appunto il libro di Enrichetta, che ho acquistato l'anno scorso, mi pare, o un po' di tempo fa, insomma, mi ha fatto molto pensare appunto a questa divisione. Pensate che prima degli anni 60, quindi, quello che esce fuori è che, ad esempio, un invalido civile non aveva nessuna garanzia, nessuna tutela da parte dello Stato, no? E far pensare, ad esempio, non solo alla storia, diciamo, quella moderna, contemporanea, del fatto che oggigiorno, da 10 anni, rompo le palle con i miei video sulle barriere architettoniche, eccetera, eccetera, che magari qualcuno di voi ha già visto in giro, ma cosa è successo anche prima? Cioè, pensate, per dei millenni interi, no? Comunque partiamo dall'antica Grecia, no? Lì prendevano i disabili, lì nasceva una persona, prendiamo gli Spartani, no? Quelli che erano belli figli, avete presente il film 300, no? Che tu non, capito, questa è Sparta che ti tira il calcio, no? Tutti, beh, una comunità, insomma, di persone belle, fighe, perfette, che quando ti nasceva un figlio disabile, tu, in uno stato autoritario o democratico, che magari poteva succedere anche ad Atene, dove c'era la democrazia, il potere del popolo, te prendevano e te gettavano giù dal monte, dicendo, vabbè, ah, questo è deforme, è disabile, cazzo, no, non va bene, colpa degli dèi, colpa dei santi, colpa di chi cazzo è, ma lo gettiamo giù. E nel caso migliore, diciamo, sopravvivevi, campavi, ti mandavano poi in esilio perché sei rigobbo, capito? E a parte essere juventino porti male, appunto, vatte in esilio. Quindi io sono d'accordo, forza Roma, come Valentina, però dall'altra parte non è bello mandare le persone fuori dalla città democratica. E invito tra l'altro anche magari studiare un po' di filosofi, perché ne dicevano di belle cose, un po' alla hitleriana, possiamo dire, un po' alla razza pura. Però appunto c'è stata questa intolleranza verso il più debole e più fragile già dall'antichità, quindi a me fa già incazzare questa cosa. E questa intolleranza che oggi chiamiamo abilismo, insomma, abbiamo dato un termine anche in seguito agli anni di evoluzione dell'essere umano, siamo arrivati anche a dare dei termini più o meno civili, come ad esempio non più handicappato, ma persona con disabilità, piuttosto che discriminazione, abilismo in base al tuo stato fisico, corporeo, di come stai fisicamente, psicologicamente. Io credo che in verità tutta questa rabbia verso il più debole e tutta questa arroganza dell'essere umano che fa parte di noi comunque non è mai andata via, non è mai andata via dai tempi dei greci, degli antichi. Quindi se ieri ci gettavano giù dai monti, oggi fanno la stessa cosa in paesi africani. Se ci pensiamo, nasce albino in Africa, sei fottuto, perché probabilmente ti ammazzano per fare i gioielli dei tuoi ossa. Quindi, come dire, la disabilità tutt'oggi è parecchio, dal mio punto di vista come attivista, e non è molto tollerata dalla società. Infatti ottenere uno spazio su un giornale, ottenere uno spazio comunicativo anche nella televisione, diventa, diciamo, o un esperimento sociale oppure una cosa nuova, no? Pensate al ragazzo quello sparato alla schiena che è andato alla casa del Grande Fratello, no? Comunque, no, che roba nuova, è un disabile in casa, no? Io poi questo programma me lo sono dovuto guardare perché se lo guardava la mia ex, però dall'altra parte, come dire, è un documento che fra 100 anni, che io non ci sarò più e rimarrà solo il titanio della mia schiena, come dire, qualche altro attivista leggerà, dirà, cazzo, ma guarda, questi andavano nella casa del Grande Fratello negli anni 2000 e andavano invece anche a fare i cortei con Black Bloc in carrozzina sotto il governo. Wow, che storie! E oggi abbiamo magari un mondo dei diritti ancora migliore, perché oltre agli attivisti di Crip Camp, o i giullari della corte medievale, che erano i primi disabili, se ci pensate, un nano giullare, capito? Era il primo che se la campava in Medioevo, se no gli altri, pure quelli, finivano male. E come dire, insomma, la storia, insomma, un po' così, piena di odio, no? E quindi, infatti, nella storia dei 300, se ci pensiamo, in questi pompati che difendono una certa Grecia, io sono contento che il gobbo ha fatto un po' l'infame e li ha traditi e ha fatto guidare tutti questi persiani per ammazzarli. Magari io mi auguro che poi il gobbo si sia beccato anche dei denari in più, perché comunque grande, si è vendicato. Però, tornando alle cose serie, appunto, l'attivismo oggigiorno è anche ben presente, perché appunto sia dagli anni 70, se guardate le fotografie, che ci sono questi ragazzi senza braccia, senza mani, con le biciclette, c'è qualcuno anche lì, guardando la fotografia, che ci sono presenti nel libro di Enrichetta, quindi degli attivisti degli anni 60-70 che si erano mobilitati per ottenere la pensione di invalidità, cazzo, il riconoscimento dell'invalidità civile, perché attenzione, anche prima lì, storicamente, chi sono stati riconosciuti per i primi? I disabili da guerra, no? Chi andava a combattere, capito? Perdeva un arto, capito? Ah, ok, vabbè, bello, c'avevo pure un altro braccio, però l'altro l'hanno segato con la spada nel Medioevo, come dire. Poi in seguito agli anni, in fabbrica ti perdevi un arto, sei stato riconosciuto in seguito alla rivoluzione industriale, immagino, come con un minimo di diritti, quindi lavoratori militari, poi quelli lavoratori, e poi solo negli anni 70-70, quindi 40-50 anni fa, raga, chi cazzo si cadeva per strada perché l'autobus non è adeguato e si spaccava la gamba, cazzo, forse riusciva a ottenere un'invalidità. Chi nasceva male dal parto perché il medico è incompetente e ti prende con il forceps, creandoti una lesione al midollo, poi alla fine viene riconosciuto che sei una persona disabile civile, per motivi di incapacità del medico, ecco. Poi magari ti becchi un risarcimento o meno, però la disabilità te la tieni. Quindi io credo che oggi è importante assolutamente che vedo anzi del cambiamento anche negli ultimi 10 anni, cioè 10 anni fa il movimento anti in piazza degli spazi sociali, io penso che non teneva, sì, c'era la parola, diciamo, l'altro giorno mi è capitato di vedere un vecchio striscione della Cascina Torchiera, io faccio parte anche di un altro spazio che si chiama Cascina Torchiera, e c'era scritto appunto negli anni 2000, quindi 20 anni fa, siamo tutti antifascisti con la I, no? Oggigiorno, cazzo, siamo tutte e tutti, cioè metti l'asterisco, no? Come dire, è entrata questa cosa. E io, ad esempio, portando il progetto sull'abbattimento di barriere architettoniche e attivismo a Milano in generale, vedo che neanche nell'ambiente degli spazi, del movimento reale che poi c'è in piazza, come dire, un po' di sull'inclusione abbiamo smosso qualcosa. Io poi mi auguro che appunto man mano riusciamo a farlo sempre di più e che la tematica della disabilità sia inclusa appunto all'interno di tutte le lotte, perché appunto dal lavoro fino all'educazione, dal vivere civile fino a guidare una macchina, fino ad andarsi a bere una birra. Poi in verità, boh, non so ragazzi, io non sono uno che piace di tanto dileguare, preferisco insomma lasciare anche la parola agli altri appunto e sentire poi cosa c'è anche magari il pubblico da proporre, quindi ritornerei anch'io ad ascoltare come Valentina, come attivista insomma sul territorio, invece un po' di storici, perché appunto Matteo magari ci racconta un po' anche nel Medioevo come venivano torturati, ammazzati sti handicappati che rompevano le scatole per 2 mele e 2 pezzi di pane. Dai, mi sposto un po'. Poi nell'aula vedo anche Angelo, che comunque può anche lui raccontare un sacco di esperienze. Lui aveva penso 20 anni negli anni 70, quindi cioè in verità mi ha raccontato qualche storia su di te, quindi anche sarebbe interessante sentire. Dai, aspetta, mi sposto di qua. Lascio qua. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, e mi ha fatto piacere ascoltare chi è intervenuto prima di me. Sulla storia della disabilità potrei tenervi qua per i prossimi 3 giorni, ma non lo farò. Volevo agganciarmi anche a un po' di cose che sono già state dette. Mi vengono in mente 2 cose. La prima è che si parlava del Crip Camp italiano. Alla fine degli anni 60 cominciano ad esserci anche delle esperienze piuttosto importanti, mentre negli Stati Uniti, come si vede in Creep Camp, il documentario, si comincia a parlare anche di vita indipendente a partire dal campus universitario di Berkeley, in cui c'era anche Judith Heumann. Nel 66, per esempio, quella che oggi conosciamo tutti bene o male, che è la comunità di Capodarco, ci sono delle persone con disabilità che dicono: noi andiamo a vivere da sole, insieme a degli operatori che erano amici, che quindi si prendono una cascina e cominciano, e sicuramente non avevano avuto eco di quello che stava succedendo negli Stati Uniti, perché ovviamente il livello di comunicazione e di scambio che c'è oggi non era quello della metà degli anni 60. Quindi forse la prima cosa, e secondo me anche un elemento di ambiguità che abbiamo oggi, è il fatto che se c'è una cosa che noi, che la storia della disabilità ci insegna, oltre alle cose che diceva anche Andrea prima, è il fatto che comunque quando ci si muove culturalmente, politicamente, a parlare di disabilità, il retaggio che noi abbiamo di quella che noi oggi chiameremo discriminazione e stigma è antichissimo. Cioè, la storia della disabilità, da sempre la disabilità è nell'umanità, da sempre le persone con disabilità, quelle che noi oggi chiamiamo persone con disabilità, sono persone discriminate. Quindi noi questa cosa ce la portiamo dietro, e naturalmente la presenza di persone con disabilità che dagli anni 60, 70 si muovono in prima persona per rivendicare i propri diritti è, come è successo per il movimento femminile, come è successo per il movimento operaio, come è successo per i movimenti di decolonizzazione, come è successo per le persone con diversi orientamenti sessuali, cioè la partecipazione diretta delle persone fa cambiare le cose. Questa è la prima cosa che noi ci portiamo dagli anni 60 in poi. L'altra cosa è che però non solo quel pregiudizio antico continua ad esistere, e quindi noi su questa cosa ci dobbiamo confrontare. E come ci dobbiamo confrontare? Mi venivano in mente anche un po' di cose che dall'intervento di Valentina, è che ormai i temi della disabilità, ecco, qua c'è una prospettiva piuttosto coinvolta, politicizzata, ma non è che tutto il mondo della disabilità è politicizzato. Quindi noi da una parte ci troviamo questa dimensione antica del pregiudizio che serpeggia non solo al di fuori delle società, nel resto della società, ma anche dentro di noi. Dall'altra parte lo stesso mondo della disabilità è un mondo molto spesso, e naturalmente le manifestazioni che si fanno servono anche a questo, è molto spesso diviso. È un mondo in cui sono stati anche citati degli esempi recenti. Io, se mi viene in mente un esempio recente in cui dico: vabbè, ma io ragiono di disabilità qua al Conchetta o con altre persone, però il presidente dell'Unione Italiana Cechi alle ultime elezioni si è presentato con la Lega Lombarda. O, e questo succede, sono le grandi associazioni che gestiscono anche dei servizi residenziali e assistenziali che, per esempio, tutta una battaglia sulla deistituzionalizzazione non la sostengono. O, e su questo io ci credo molto al discorso anche che faceva Valentina, oppure le disabilità, ed è stato detto anche da Enrichetta, le disabilità più complesse sono quelle che sono meno rappresentate, meno, anche perché noi siamo tutte persone con disabilità, ci possiamo rappresentare, possiamo fare dei discorsi, possiamo studiare, possiamo scrivere libri, possiamo fare delle cose, ma chi non è in queste condizioni che sono le nostre e ha difficoltà ad autorappresentarsi, difficoltà a dire di sé. Su tutto questo mondo, anche scientificamente, anche culturalmente, noi non sappiamo nulla. E allora, proprio perché il mondo della disabilità comincia a intervenire quando le persone con disabilità intervengono e si prendono in mano, nello stesso tempo la disabilità ancora oggi è soggetta a tutta una serie di, è trascinata un po', è tirata a destra e a sinistra da movimenti in un certo senso ancora reazionari. E la questione è che secondo me noi dobbiamo politicizzare il limite. Questa è la sfida che abbiamo, culturale, politica e anche di movimento. Noi dobbiamo politicizzare il limite. Tu prima citavi il concetto di abilismo. Io lo ammetto, cioè a me questo concetto, pur sostenendolo, a me pone problema. Perché è un concetto che ci siamo inventati, che il mondo della disabilità si è inventato contro il razzismo, cioè per specificare una forma di razzismo verso le persone con disabilità. Però secondo me, io quando sento parlare di abilismo è come se uno dice il mondo fa schifo. Possiamo anche essere d'accordo che il mondo fa schifo, però poi decidiamo cosa farci quando il mondo fa schifo. Cioè, allora il mondo fa schifo e allora dopo, tra mezz'ora, domani, fra sei mesi, cosa facciamo se il mondo fa schifo? Perché guarda caso i movimenti delle persone con disabilità, ed è già stato detto, vanno in crisi quando ci sono delle situazioni molto complesse. E allora il problema non è di noi persone con disabilità che possiamo autorappresentarci, possiamo fare delle cose, possiamo fare ricerca, possiamo fare lotta, possiamo fare queste cose, e allora diciamo ci sono delle condizioni che sono molto limitate, che hanno gli stessi diritti di tutti, ma quel limite esiste. E allora politicizzare il limite non vuol dire solo criticare l'abilismo. Un'altra cosa, e ovviamente per discutere, io capisco benissimo che lo striscione che citavi prima sul siamo tutti antifascisti deve essere anche declinato per generi che non sono quelli maschili. Però ad esempio la cosa che si usa, e io capisco da dove viene, non la sto contestando, la cosa del fatto che ormai non usiamo più il genere, mettiamo l'asterisco perché dobbiamo includere uomini, donne e chi ha percezioni di sé differenti. Per esempio, questo modo di comunicare, che adesso si ritrova anche nei libri, per persone dislessiche è un disastro. Non ci capiscono, non lo capiscono. E allora noi, è interessante, cioè, per difendere, e va difeso il fatto che non è che tutte le cose si declinano al genere maschile, ed è chiaro, quindi non è che sono per, non voglio difendere quell'idea, ma voglio difendere il fatto che le questioni sono molto complesse, e il rischio è che nella frammentazione, nella divisione e nel fatto che le disabilità intellettive, le disabilità più complesse non hanno ancora oggi né della letteratura scientifica né della letteratura militante né la capacità di autorappresentarsi, cioè lo fa Valentina, ma lo fa adesso, lo sta facendo molto bene. Però noi veniamo da una storia antichissima, e anche pensando solo dagli anni 60 in poi, in cui i discorsi che fa Valentina non si facevano, in cui tutto il movimento, anche quello raccontato dal libro di Enrichetta, non c'è. E io però il problema è che questa cosa qua continuo a non vederla, continuo a non vederla, e le persone nelle situazioni più complesse continuano ad essere considerate comunque inferiori, perché questo è il tema. E allora noi dobbiamo politicizzare il limite, perché il limite c'è. Il limite è parte della condizione umana, non è parte della condizione delle persone con disabilità. Quindi non possiamo dire, io poi sono d'accordissimo sul fatto che è la società che disabilita e tutte queste cose qua, però i limiti ci sono. E certe volte sono molto complessi. Quando Valentina lo dice, o come lo dice un altro documentario che consiglio, oltre a quello di stasera, che è Ziguli, che è tutta la storia di Massimiliano Verga, quella dimensione lì è molto complessa. E noi dobbiamo politicizzare quella dimensione. E quando noi saremo capaci di politicizzare quella dimensione, e naturalmente politicizzare quella dimensione vuol dire che tutti i temi che affrontiamo, dalle barriere architettoniche, comunicative, vita indipendente, li abbiamo già nella nostra faretra, però il nostro obiettivo deve essere quello lì. E guarda caso, io lo dico subito, questo documentario che si proietta questa sera l'ho già visto 3 volte, per cui probabilmente non mi fermerò, cioè mi resterò fino a quando, prima della proiezione, anche perché abito a Lodi, quindi mi ci vuole un pochino per andare a casa, però non è questo il problema. Io l'ho apprezzato molto questo documentario, però ci ho scritto anche una critica abbastanza, una critica. La critica è proprio questa, cioè che in questo documentario, e naturalmente un documentario che invito a vedere e che non sto dicendo che è un cattivo documentario, questo sia chiaro, però la dimensione delle disabilità complesse in questo documentario non viene fuori. E allora, se anche i mondi della disabilità, quando raccontano loro stessi questa parte qua, la nascondono o non ne parlano, o, ed è tutta un tema che c'è all'interno dei disability studies, che sono gli studi che studiano la disabilità, sul fatto che noi non dobbiamo rappresentare negativamente la disabilità perché nel discorso pubblico, nel discorso politico, noi siamo uguali a tutti gli altri. È vero, ma quelle dimensioni complesse o restano, e allora o noi facciamo delle battaglie che sono solo per quelli che, da persone con disabilità, sono molto più vicini alla normalità, tralasciando tutte queste persone, o altrimenti il discorso è un altro. E a me è questo che mi preme, cioè dobbiamo politicizzare il limite, perché questi limiti esistono. Allora, i limiti li possiamo vedere o con la classica cosa, tu non puoi, tu non riesci, tu non farai mai, tu così, via, e ti butto giù dalla rupe. Dall'altra parte, l'altro limite è, no, non ci sono limiti, e invece non solo ci sono e fanno parte del nostro essere esseri umani, e non perché un giorno moriremo e non perché le cose, allora non le facciamo le battaglie, però facciamo tutte le battaglie possibili all'interno del fatto che questi limiti esistono, e che questi limiti non è che è l'abilismo che li inventa, il limite esiste. Noi dobbiamo politicizzare il limite, perché altrimenti non è solo chi riesce ad autorepresentarsi, solo chi riesce a dire delle cose può farlo. E il rischio del figlio di Valentina o di altri che sono in situazioni complesse è proprio perché non abbiamo politicizzato quella cosa, e le istituzioni, tra l'altro anche private, religiose, che continuano a giocare su quel terreno, diventa oggettivo. Valentina non diceva una cosa, cioè giustamente sia Valentina che Enrichetta parlavano di scuole. Noi qua siamo a Milano e in Lombardia ci sono ancora le scuole speciali, e attenzione, le scuole speciali ci sono e continuano ad essere non solo perché molto spesso la scuola inclusiva non riesce a rispondere a situazioni di disabilità complesse, ed è sempre quello il problema, ma anche perché molte famiglie preferiscono mandare i loro figli lì perché loro lì li seguono, Ora, naturalmente io non sto facendo l'apologia delle scuole speciali, e lungi da me. Però il rischio, ed è su questo che secondo me noi culturalmente e politicamente dobbiamo lavorare, il rischio è che dietro l'oggettività del fatto che ci sono ragazzi in situazioni molto complesse, del fatto che ci sono persone che non potranno mai andare a vivere da sole, perché hanno bisogno di supporti e di sostegni, e naturalmente il concetto di vita indipendente qua è fondamentale per tutti, non solo per chi è su una carrozzina, che quindi con un po' di supporto e un po' di sostegno può andarsene a vivere da solo, ma il concetto di autodeterminazione, di scelta. Qual è la possibilità di scelta di una persona che non è in grado di autorappresentarsi e che per tutta la vita si è sentito, non è mai stato ascoltato? Qual è la consapevolezza di sé che uno costruisce? Com'è che uno può pensare di autodeterminarsi quando per tutta la vita non si è mai, non è mai stato nella condizione? Ma non perché ha una disabilità complessa, perché nessuno glielo chiede mai, perché l'unico modo di comunicare è quello che stiamo usando noi adesso, quello della parola, della voce. E allora queste cose qua o diventano politica, o altrimenti ci saranno sempre delle ragioni, perché le istituzioni segreganti, caritative, le scuole speciali, il contributo dei genitori e delle stesse persone con disabilità al fatto che queste cose continuino a esistere è legato al fatto che poi dietro all'oggettività del fatto che una persona con una disabilità complessa non potrà mai vivere da solo, perché noi abbiamo ancora in mente questa roba qua, che autonomia e autodeterminazione sono la stessa cosa, mentre invece non è così, dietro a questa oggettività passa tutto. E allora noi dobbiamo veramente fare delle battaglie, ed è per questo la critica al documentario che va visto è questa, cioè, e le situazioni più complesse perché non sono state rappresentate lì? Io ve lo dico, cioè, non voglio spoilerare niente di questo documentario, però c'è una scena bellissima all'inizio del documentario, perché è un documentario tra l'altro che è veramente ben fatto, fatto quasi tutto con documentazione del Grip Camp. Con documentazione d'archivio, quindi di quegli anni. C'è all'inizio del documentario un momento in cui ci sono delle persone sedute attorno a un tavolo che fanno molta fatica a parlare perché hanno delle forme di spasticità. Ora, questa cosa cinematograficamente è la cosa meno cinematografica possibile. Eppure l'hanno messa. Solo che l'hanno messa, credo che sia nel primo quarto d'ora, ma poi in tutto il resto del film questa roba non c'è più, mentre proprio perché noi dobbiamo far vedere quelle dimensioni, le persone anche con disabilità fisiche che fanno fatica a parlare, che non hanno nessun deficit intellettivo, e naturalmente non è che chi non ha deficit intellettivo è meglio di chi ce l'ha, però sono le persone che, per esempio, dalle persone con disabilità fisiche, siccome ci esprimiamo sempre con la parola, sono quelle che se parli male sei un deficiente. E allora forse anche cinematograficamente costruire un modo di rappresentare, di autorappresentare quelle persone che hanno un eloquio complesso, diventa politica. Te lo guardi, vuoi guardare il documentario, guardi anche queste cose, non te lo fa fare nessuno, se no tanto su Netflix ce ne sono altri 4 milioni di film, ti cambi documentario, ti cambi film, però quella roba lì esiste, e quella roba lì esiste anche di persone che hanno disabilità complesse. E allora o noi questa cosa la politicizziamo, perché è quello che è successo. Su questo poi mi piacerebbe anche discutere, parlarne tra di noi. È se è vero che i movimenti delle persone con disabilità si sono autorappresentati con la partecipazione, noi dobbiamo costruire veramente un discrimine sul fatto che la partecipazione sia la partecipazione di tutti. E questo, secondo me, noi su questo dobbiamo ancora lavorare molto. E questo anche nel mondo accademico, nel mondo ma anche nel mondo politico questa cosa qua secondo me va fatta, e di queste cose forse è bene che ne parliamo anche tra di noi. Grazie. Forse qualcuno collegato mi ha detto che c'è una manina alzata. Chi è? Tutte manine alzate, quindi vai Enrichetta, ma penso che dopo Matteo dopo tutte. Sì. Vai, vai. Gioco, ci si è aperto il... Okay, sì. Vabbè, vai, vai. No, allora, sono, diciamo, molto contenta che sia venuto fuori questa... tutto questo dalle parole di Matteo Schianchi, perché io l'ho trattato molto marginalmente, perché appunto mi è stato chiesto un quadro storico della situazione, però ecco, io sono questo problema della rappresentazione molto parziale delle persone con disabilità, cioè me lo sto ponendo, cioè lo stesso io per esempio quando partecipo alle manifestazioni del Disability Pride sono molto contenta, non solo perché appunto c'è questa possibilità di farsi vedere come movimento nelle rivendicazioni, ma proprio perché ci sono persone con diverse condizioni, proprio perché c'è Valentina con Sirio, che faccio l'esempio perché mi permetto, perché Valentina è presente in questo momento, che è un bambino con disabilità complessa, ma quanti bambini ci sono come Sirio che noi non vediamo, quante persone con disabilità cognitiva noi non vediamo e con cui noi stessi non abbiamo mai parlato. E poi cioè, secondo me Matteo Schianchi prima parlava della politicizzazione del limite, e poi ci dobbiamo anche dire secondo me un'altra cosa, che noi per esempio abbiamo smesso di parlare del dolore, parlo proprio del dolore anche fisico, perché noi oggi infatti noi ripudiamo, e io ripudio le marce del dolore, però facendo così noi abbiamo diciamo tolto dal discorso pubblico il tema del dolore. Fatto sta che il dolore, ripeto, anche il dolore fisico, è quello che poi effettivamente ti blocca. E lì non è una questione di barriera fisica, ambientale, è una questione di una condizione. Si è bloccato di casa. Scusate, oggi non so di essere duplice, che è meravigliosa, sbuchi con tutte sì, sbuca un profilo perché oggi ci sono un po' di problemi qua a Cosenza, ripeto, quindi forse salta un po' la linea. Quindi noi abbiamo appunto un grande problema di rappresentazione. Io per esempio, oltre ad aver scritto il libro, ho realizzato un paio di radio documentari con Radio 3, con Rai Radio 3, e ho ottenuto per esempio che nell'ultimo radio documentario ci fosse anche Valentina con la storia di Sirio. Io racconto tra l'altro il periodo del lockdown, che è un periodo in cui di disabilità se ne è parlato veramente poco, cioè si è parlato delle strutture che non hanno saputo tutelare le persone con disabilità, questo è sicuramente vero, però non si è parlato di tutto il resto, di quelle persone che sono rimaste a casa e non hanno avuto tutti quei supporti che avevano prima. E io in particolare nel documentario, per tornare al tema del dolore che dicevo prima, ho raccontato un episodio di dolore banale, cioè un mio dolore alla caviglia, che però non mi permetteva di fare niente, di fare anche le cose più non mi permetteva di fare anche le cose più semplici. Cioè io dal parlare di vita indipendente sono tornata a dover chiedere a mia madre venire a prendere, perché non posso fare, cioè non posso arrivare in cucina a fare colazione. Quindi queste cose però, voglio dire, ce le dobbiamo dire, perché se c'è il dolore non è che non lo possiamo eliminare. Quando io sono stata alla Disability Pride di Bologna insieme a Andrea, insieme a tutti gli altri del Disability, c'erano insieme a me, c'era una ragazza che aveva un dolore nel camminare e che quindi utilizzava la sedia a rotelle. E però appunto lei aveva molte difficoltà, perché pur utilizzando la sedia a rotelle comunque il dolore non le permetteva di seguire la manifestazione. Però appunto nel discorso pubblico di tutto questo non si può parlare, è tutto improntato sulle barriere, sul fatto che sia la società che è disabilita. E questo è sicuramente vero, che la società è disabilita, e bisogna fare in modo di distruggere tutte le barriere possibili. Però, come si diceva prima, i limiti esistono. E forse la vera rivoluzione è proprio quella di far capire che la rivoluzione che le persone con disabilità possono fare è far capire che il limite esiste e che fa parte delle condizioni, della condizione umana, perché sennò diventa sempre un rincorrere questo limite, a doverlo superare in ogni modo possibile. Però ci sarà sempre in questo modo qualcuno che rimarrà indietro, qualcuno che non riuscirà a superare quel limite, qualcuno che non riuscirà ad avere tutti i supporti di cui ha bisogno e che si sentirà comunque diverso rispetto agli altri. E invece bisognerebbe forse imparare a convivere in comunità tutti insieme, riconoscendo le condizioni di ognuno. Che siano complesse o meno. Poi anche il discorso di dire, tutti abbiamo dei limiti perché tutti poi invecchiamo, eccetera, eccetera, è vero fino a un certo punto, nel senso che la disabilità per una persona giovane o per un bambino o per una persona che nasce e che vive tutta la sua vita con una disabilità è diverso da una persona che ha una disabilità in quanto anziana, perché la sua prospettiva della vita è diversa. E quindi sono d'accordo su questo, appunto bisogna lavorare molto. E, ad esempio, mi fa riflettere il fatto che il movimento delle persone con disabilità, per esempio, non si batte in modo forte, per esempio, sulla cannabis terapeutica, su quelli che sono i temi del fine vita, tutte quelle che sono appunto le disabilità più complesse, più gravi. Questo, ho usato questo termine che appunto che non si usa più tanto, però gravi, perché lo Stato lo usa sempre di più, adesso li usano addirittura gravissimi, noi siamo nell'elenco dei gravissimi per la regione Lazio, quindi poi ero pure anche io scusate questo dialogo fra tutte e due, quando avevo il servizio del pulmino che mi portava all'università, alla Sapienza, noi eravamo considerati disabili comunque gravi o gravissimi. Quindi, quindi appunto su questo bisognerebbe lavorare molto e dirsi anche, diciamo, delle verità che non si riescono a dire. Poi capisco anche che il discorso delle barriere si fa perché è quello su cui la società deve lavorare. Cioè, perché ancora oggi io, se voglio andare a vivere, quando io proprio negli ultimi giorni sono andata a vedere un appartamento per vivere da sola, mi è stato detto questo appartamento ha l'accesso per disabili, così c'era scritto, c'era l'ascensore per persone con disabilità, peccato che poi il bagno aveva il gradino, la doccia aveva il gradino, quindi poi insomma io poi me lo chiedo, dico, se io magari ho queste difficoltà, voglio dire, una persona con disabilità complessa, che facciamo? Cioè, non c'è proprio speranza. Per cui c'è tanto da dire, su cui riflettere. Il problema è che la persona con disabilità complessa non l'hanno mai incontrata, la società non è proprio abituata a incontrarla, scusate, capisco che seguirci tutte a distanza vi rubo 10 secondi, è una cosa noiosa e faticosa, quindi purtroppo il dibattito a metà è difficile, sarebbe bello essere lì, però insomma il discorso che ha fatto Matteo sul limite apre, no, un mondo sulla complessità. Noi ad esempio siamo chiamati le persone, Sirio, ad alta complessità assistenziale, proprio degli alieni, che in teoria, proprio perché hanno quella parola assistenziale attaccata sulla testa, siete abituati a non incontrarli mai, quindi non hanno non solo rappresentanza di sé, narrazione di sé, non hanno proprio la possibilità di essere intercettati dagli sguardi delle persone normali, no? Quindi il concentrare poi sul bisogno complesso un racconto politico vuol dire proprio andare a ritessere quello che poi è la parola diritti, no? Perché poi anche nel mondo della disabilità, come dicevi molto meglio di me, no? Poi si creano delle barriere per cui c'è un qualcuno che non si racconta mai. Ecco, voi ormai vi siete abituati a immaginare Sirio come il complesso, e io ho tante amiche che mi chiamano e mi raccontano quanto sono fortunata, nel senso che ho un bambino che comunque riesce a essere considerato un qualcuno che può essere nella società. Ci sono situazioni estremamente più complesse di quella di Sirio, che hanno tutti i suoi stessi diritti e che è complicato anche per me stessa ogni tanto inserire nella narrazione. Noi abbiamo il nostro primo slogan fatto sui social, che era "in culo allo stato vegetativo", no? Proprio perché partivamo da una narrazione sì politica ma personale di quello che era la nostra storia nella disabilità complessa. Ogni volta che vado a parlare di diritti e di disabilità e di vita indipendente, io cerco di parlare dello stato vegetativo, di tutti quei bimbi che ho incontrato, che conosco e che stanno ormai anche ragazzi e che sono considerati per una società uno stato vegetativo, mai messi magari nelle condizioni complesse quali sono di, no, poter prendere una decisione, una scelta, di utilizzare anche la tecnologia che esiste, esistono pure i puntatori oculari, insomma siamo abituati a dar per scontato che qualcosa di complesso sia cognitivamente assente, non l'abbiamo mai presa in considerazione, c'è appunto sia il limite da considerare e quindi rendersi conto di quanto poi l'abilismo, anche la narrazione dell'abilismo tiene completamente fuori tutta un'intera altra fetta della società, che è appunto chi necessita di assistenza continuativa e quindi anche tutte le loro famiglie. Quindi è questo bisogno di politicizzare i nostri racconti, la nostra quotidianità, no? I percorsi che si fanno per ottenere i minimi diritti che dovrebbero avere tutte le persone è il punto, è l'obiettivo sicuramente centrale, costruire, immaginare un mondo a dimensione dei più complessi, no? Quindi imparare tutti a muoverci in quelli che sono i bisogni anche sensoriali, il conoscere, il cambiare ritmo. Siamo abituati a immaginare la barriera architettonica, la rampa e il gradino, no? Come unico scenario da abbattere, e invece gli scenari da abbattere e da costruire nella meraviglia che poi c'è dietro, guarda le lingue dei segni, il braille, le lingue, insomma la comunicazione integrata, quello che può costruire, l'assenza che c'è di tutto ciò in tutti i tessuti che attraversiamo, in tutta la società che attraversiamo, quanto già basterebbe educarsi collettivamente a quello, insomma, per iniziare ad immaginare che nel mondo dei diritti ci siano veramente tutti, no? Pure i matti, gli sbilenchi che necessitano di assistenza per tutto e che invece hanno diritto di potersi esprimere, di essere parte attiva della vita e in teoria della società, ma qui passa proprio, manca appunto quello che tu dicevi meravigliosamente, no? Su intere persone che non hanno mai avuto la possibilità mai di essere raccontati, di essere presi in considerazione, di rispondere a una domanda, di essere, no, considerati come persone a cui fare una domanda. E insomma, e quindi bisognerebbe, penso, partire proprio da quello, no? Per immaginare la società di tutti, e per fare in modo che il movimento che vogliamo costruire, che vogliamo attraversare, che sia capace di accogliere le diversità, insomma, non se ne dimentichi qualcuno, altrimenti facciamo sempre lo stesso gioco e i muri non si abbattono mai. Insomma, ci sarà sempre qualcuno che rimane fuori dalle mura di qualche città, e invece vanno aperti questi portoni, e partiamo anche da Sirio, insomma, che nella sua complessità c'ha la possibilità di comunicare le sue emozioni e le sue intenzioni, ma da chi neanche può far questo, ma non vuol dire che non le ha. E non vuol dire che appunto che non ha diritto a autodeterminarsi, non certo ad essere autonomo, e quindi, no, anche il percorso di cura, il percorso di assistenza deve diventare un tessuto collettivo, non deve essere a carico solo delle famiglie o del piagnisteo che riusciamo, vincenti o perdenti, a fare alle istituzioni per ottenere qualcosa, ma un qualcosa che diate tutti per scontato che si debba ottenere, perché è diritto di tutti. E quindi, insomma, c'è tanto da fare, a voglia, però insomma almeno cominciamo. Sì, beh, se qualcuno vuole dire qualcosa siamo qua, se c'è qualche intervento. Ma Marta, vuoi dire qualcosa? Dai, vieni, dici. Sai che cosa, però, se vieni qua, perché ti sentono anche finisci nella registrazione, così sentono anche le due persone. Perfetto, no, anche perché. Beh, allora, ho molto apprezzato tutto quanto, ovviamente, ma poi diciamo il riferimento alla questione politica che hai fatto. E poi quello che ha fatto, diciamo, Enrichetta sulla questione del dolore, che secondo me è fondamentale, perché io sono affetta da una sindrome genetica che mi dà problemi motori, ma problemi di tutti i generi. Però diciamo che la questione dolore è determinante, nel senso, nel mio caso. E effettivamente è vero che non è molto considerata, ed è vero soprattutto, e questa cosa è vera nel senso che è difficile considerare tutto, cioè nel senso, effettivamente c'è sempre qualcosa che rischia di, diciamo, rimanere fuori. E rispetto alla poi c'è tutto il discorso delle disabilità invisibili, anche quello effettivamente insomma, quindi ecco, mi sembra, rispetto alla questione politica, mi ha colpito cioè la battuta che hai fatto, che ha fatto Matteo sul fatto che questo assessore, non so, della Lega, non so adesso presidente dell'Unione Italiana Ciechi, che ecco, si è presentato alle elezioni, le politiche, quelle che ha vinto presidente del Consiglio, si è presentato nella Lega. Ecco, questa cosa ci dovrebbe portare a farci delle domande, perché diciamo, da persona, cioè nel senso, io diciamo, da, avendo insomma una storia sicuramente, diciamo, militante di sinistra estrema, diciamo così, per quello che può essere oggi, però non mi sembra che diciamo ci sia una che ci sia anche a livello, diciamo, politico, anche nei partiti ad esempio istituzionali, ci sia una sensibilità, parlo della sinistra, se così la vogliamo chiamare, che ci sia appunto una vera consapevolezza in questo senso. Ecco, quindi questo mi sembra, come dire, insomma, è chiaramente un problema. È chiaramente un problema. Poi ci si potrebbe chiedere che cosa sia la sinistra a livello dei partiti oggi, cioè se ci siano dei partiti che sono veramente di sinistra. Forse qualcosa c'è. Peraltro io ultimamente sto un pochino, diciamo, provando a sondare il terreno, diciamo, di quella che è la democrazia sovrana e popolare, e anche del Partito Comunista, che ne fa parte, insomma. Lì mi sembra che ci sia un pochino più di sensibilità, nel senso che quantomeno c'è stata rispetto alla richiesta di un aumento dell'assegno di invalidità. C'è stato qualcosa rispetto a una critica di come è stata, diciamo, gestita la questione pandemica, quindi qualcosa c'è, però diciamo che in linea generale mi sembra comunque una cosa veramente molto poco considerata. Come se ci fosse, diciamo, io direi una vera rimozione, perché poi, come diceva Andrei prima, come diceva anche Matteo, la questione è, per non parlare di Enrichetta che ha fatto un excursus storico, la questione, diciamo, è antichissima. Certamente, diciamo, abbiamo magari cognizione di quello che poteva essere a partire appunto dall'antica Grecia, ma credo che ci sia una rimozione, ovviamente una rimozione del limite, nel senso che significa, cioè, riconoscere la disabilità in tutte le sue infinite sfaccettature, tra l'altro, perché poi comunque nulla è, cioè non è mai completamente classificabile, ovviamente, significa, diciamo, anche riconoscere anche il limite umano, perché anche la persona sana, che fino a ieri è, cioè che fino a oggi è sana, domani potrebbe non esserlo più, ma c'è una totale rimozione nei confronti di questo, non lo so. Credo che sia un punto cardine. Poi io faccio la psicoanalista, quindi diciamo, la rimozione per me è pane quotidiano, quindi insomma, vabbè. Comunque grazie di questa importantissima iniziativa. Cioè. Posso dire una cosa? Sì, certo. No, io volevo... Non certamente... Mi veniva in mente, a proposito dei limiti dei movimenti e pur sostenendo ovviamente i movimenti, che comunque non ci siamo ancora inventati una parola diversa da disabilità, che ovviamente ragiona su una semantica negativa. Poi dopo anche lì ci sono diverse correnti, persone con disabilità, persona disabile, cioè disabilitata dalla società. Però noi comunque continuiamo, così come la storia della inferiorizzazione e discriminazione delle persone con disabilità è vecchia come il mondo, noi anche quando parliamo in una logica affermativa, militante, culturalmente e politicamente impegnata, noi usiamo sempre dei termini negativi, poi si arriva ai termini gravi, gravissimi e compagnia bella. Forse un'altra cosa che va politicizzata, e mi riferivo all'ultimo intervento, come ti chiami, scusa? Marta, mi riferivo all'intervento di Marta, e che forse un altro degli elementi della politica è che forse le nostre battaglie devono essere anche delle battaglie non perché aumenti l'assegno di invalidità, ma perché aumentino i servizi. forse questo in una logica anche di privatizzazione della, della sanità, dei servizi socio-assistenziali, eccetera, questa è una battaglia politica. Quindi credo che ci sia non solo molto da fare, che delle cose le stiamo anche facendo, però che ci sia veramente il fatto di considerare tutta una serie di dimensioni, anche quelle del dolore, della fatica, che devono diventare politica di un discorso veramente diverso, perché altrimenti noi rischiamo di giustificare sempre tutto con la nostra condizione, la nostra, la mettiamo lì e diciamo questa roba è oggettiva, io non ho risposte e quindi è lì. Invece la politica, ed è questo, pensiamoci bene, anche dato che siamo partiti da queste cose, quando i movimenti storici, sociali, politici hanno ottenuto delle grandi vittorie, quando, lo si diceva prima, le persone direttamente impegnate si sono mosse, ma insieme a loro anche altri settori della società hanno capito che quella battaglia era una battaglia che andava fatta. Cioè il movimento operaio, tutta la letteratura, la ricerca, da Marx in poi, non è che Marx andava in fabbrica, quindi c'era una trasversalità. Il movimento delle donne ha avuto ovviamente nelle donne l'elemento principale, e le donne sono metà se non di più degli esseri umani, quindi non sono poche, ma anche gli uomini, nonostante il maschilismo ovviamente continui ad esistere, hanno sostenuto questa cosa, le battaglie dei popoli della decolonizzazione è avvenuta perché i popoli colonizzati hanno cominciato a muoversi, ma perché sono stati sostenuti anche da altri. Quindi è la trasversalità delle lotte che porta le lotte a uscire dal ghetto. E purtroppo, e anche nell'intervento di Marta e anche nell'intervento di Enrichetta veniva fuori, il problema è che dei mondi della disabilità molto spesso si occupano solo le persone con disabilità. Cioè questa dimensione di trasversalità non c'è ancora. E allora questo diventa, e quando c'è è solo perché è il familiare, la persona direttamente coinvolta, mentre quando facciamo delle manifestazioni per qualsiasi cosa, non è che le facciamo perché abbiamo delle ragioni culturali, politiche, sociali, non solo perché ne siamo direttamente coinvolti. Questa cosa qua, i mondi della disabilità non sono ancora stati, non hanno ancora contaminato, forse perché c'è questa rimozione, c'è questa cosa qua, che le persone con disabilità devono stare tra di loro. E quindi quel tema lì diventa, ecco, il tema lì, e per questo dico bisogna politicizzare il limite, perché altrimenti nella percezione media collettiva il limite è quella roba lì, non lo voglio vedere, stia lì, e il mondo è fatto dagli abili. Invece nel politicizzare questa cosa qua diventa discorso e soprattutto pratiche che cominciano a uscire da un ghetto in cui comunque ancora culturalmente si vuole tenere all'interno di un ghetto per non vederlo, per continuare a lasciarlo lì, perché è la cosa più semplice. Poi dopo, quando ce ne dovremo occupare, perché poi uno invecchio, perché uno a un certo punto deve finire un istituto, lo faremo, che tanto ci sono le istituzioni private, caritative, eccetera, che lo fanno. Ma il motivo è che tutta questa cosa qua non è stata politicizzata. Non lo so, posso intervenire, volevo risponderti un po' su, abbiamo altre domande, tanto per capire, qualcuno vuole intervenire? Ok, ce n'è una dopo, ok. Però non lo so, io so quella questione a politicizzare la tematica della disabilità, o se la politica, io la vedo molto che la politica invece, i partiti politici, chi ha politicizzato, chi governa, sta ben attento sulla tematica della disabilità, soprattutto negli ultimi 10 anni si è creata da una parte una coscienza sociale, una coscienza politica forse, non lo so, dall'altra parte un'attenzione anche alla tematica e dall'altra parte ancora l'usare questa tematica per propri fini. Io in verità sono d'accordo con tutto il discorso di tutti gli, tutti gli interventi che hanno detto, hanno messo un pezzo di puzzle. La situazione è veramente complessa perché comunque appunto sono difficili, sono tanti tipi di disabilità, però la politica si occupa come dei disabili, nel senso che viene a casa tua e si occupa proprio direttamente. Abbiamo 3-4, abbiamo già avuto 3-4 ministri della disabilità, attenzione, tutti normodotati. Oppure chiesto a Salvini quando è venuto a rompere i coglioni, che è dove abito io, ho detto scusi, ma cosa ne pensa lei che 3 ministri di disabilità, tutti e 3 normodotati, cioè dov'è lo spazio alle persone con disabilità? Non avete una persona nella Lega da candidare. E infatti il presidente dell'Unione Nazionale Cechi, tra l'altro, mi fa molto ridere la cosa, perché te candidi, vincete pure e te sei un trombato lo stesso, perché sei stato solo usato come una carica elettiva, cioè come un tirabuoi, tiravuoti, insomma, con una promessa del tipo sì, ti diamo una mano, ti diamo i soldi. Attenzione che però, tra l'altro, appunto, le grandi associazioni che rappresenterebbero appunto la tematica della disabilità in un paese come Italia, la FISH, la AMNIL, la AMNIC, eccetera, eccetera, a me per esempio personalmente come attivista per i diritti con disabili non piacciono, non perché penso che i loro membri della federazione siano cattivi, brutti e sporchi, ma però penso che dall'altra parte ci sia effettivamente un collegamento di potere di chi gestisce queste grandi realtà, vari Falabella eccetera eccetera, che sono i primi a fare la foto con Mattarella e un Rolex d'oro sul braccio, ma intervengono anche, si incazzano solo quando a loro viene fatto il torto, quando a loro il taxi non li serve, quando a loro il taxi che arriva, che hanno chiamato a Milano Centrale, non è accessibile. Allora lì poi scrivono un post su Facebook, si incazzano, dicono come nel 2023 i taxi non sono accessibili. Ma zio, tu i soldi per i taxi ce l'hai come? Da usare tutti i cazzo di giorni. Noi invece che siamo, per carità, persone con disabilità come te, appunto, però di strada e di realtà, siamo invece solite ignorati. Io credo che la maggior parte delle persone con disabilità, oltre a non essere tesserata ad alcuna realtà che fa parte di questa federazione, di queste maxi federazioni, quindi come dire, io per esempio con la vita indipendente, ci ho avuto a che fare qua, vita indipendente Lombardia, li conosco, so vita indipendente Eni in Lombardia, attualmente credo che si riuniscono in 6 persone, attenzione, sono una realtà che sta morendo, cioè proprio fisicamente hanno 70 anni a testa e l'ultima volta che toccavano i soldi per la vita indipendente in Lombardia con la proposta di Bolognini, ex assessore alla disabilità, di tagliare da 600 euro a 300 euro questi soldi per la vita indipendente, mi hanno chiamato a me, mi hanno fatto fare a me un corteo e si è presentata una persona di loro. Quindi spesso anche certe realtà tendono a scomparire come dei dinosauri, come anche purtroppo nel bene o nel male, non lo so. Io credo che dall'altra parte, come attivisti, come persone, insomma, dobbiamo civile, dobbiamo porre il fatto che dobbiamo aumentare, implementare il numero degli attivisti in giro, cioè non basta un Andrei che rompe le palle a fare i suoi video, non basta un'Enrichetta che scrive un libro, non basta una Valentina che promuove appunto la questione del caregiver, ci vogliono 10.000 Valentina, 10.000 Andrei, 10.000 Enrichette, con le proprie posizioni e vedute diverse, perché io la posizione con Enrichetta politica non la condividerei probabilmente, perché lei è del PD, io sono un anarcocomunista pazzo in giro che la gente crede che sono scoppiato, quando in verità poi organizzo in modo concreto un corteo anche di 1.000 persone a Milano. Dopodiché come attivista appunto oggigiorno penso che una volta che ha fatto questi cortei anche lì Disability Pride, belle feste, sorrisi e le canzoni, sì, fino a un certo punto, perché dall'altra parte io sono incazzato perché i servizi non funzionano e se io prendo le vecchie lotte dei disabili degli anni 60 e 70, questi stavano a fare le manifestazioni sotto il palazzo di potere, quindi poniamoci la domanda, forse ok quest'anno lo faremo ancora fino all'arco della pace alla festa, però io già l'anno prossimo penso che le manifestazioni, i cortei che dobbiamo fare, non dobbiamo finirli sotto la regione o quei palazzi di potere simbolici dove tra l'altro i politici sono via, ma dobbiamo farli finire anche sotto le aziende pubbliche, oh, c'è la TM, ci avrà un responsabile della disabilità. E io quando mi trovo gli ascensori guasti, capito? Mi incazzo, capito? Quello responsabile deve saltare. E quindi, oltre ad implementare e aumentare il numero degli attivisti incazzati in giro, che facciano video, che scrivono libri, che scrivono post su Facebook, che escono in strada con un cartello, dobbiamo appunto anche colpire i veri centri di potere, che sono queste grandi aziende, tra l'altro, di trasporto, di servizi per i pubblici che vengono erogati alla cazzo di cane. Cioè, quante persone oggi... Cioè, non c'è Silvia Rossonero, perché immagino lei sia rinchiusa nella sua RSD, capito? Anche questi altri posti dobbiamo farci vedere e farci sentire. E tra l'altro la cosa che mi piacerebbe magari un giorno, un domani, se i nostri politici, perché ci sono anche, adesso i partiti politici hanno stabilito che per ogni partito politico devono promuovere in Parlamento una persona con disabilità, e poi fanno il gruppo intersezionale dove... Oh, quello del PD si becca con quello di Forza Italia, con la Giuseppina lì, Versace, che non c'ha le gambe, si becca con l'onorevole Penna del 5 Stelle, oh, parlano della disabilità, sono la loro gruppo interparlamentare intersezionale. Però alla fine dei 5 anni dei mandati, oh, la pensione di invalidità è ancora 300 euro e i cateteri barra servizi sul territorio fanno schifo. Quindi io credo che oltre ad aumentare anche in Parlamento dobbiamo entrare comunque... Cioè, oh, io sarei contento, capito, che più persone con disabilità fossero in Parlamento. Cioè, dovrebbero essere 10% o 4 milioni su 60 milioni. Io non vedo che c'è un 10% dei parlamentari onorevoli con disabilità, altro che quote rosa qua, capito? Mettono il simbolo, prendono l'isanoia e le fanno diventare famosi, importanti, e poi li usano, e poi il giorno dopo cambiamo l'attivista di turno. Beh, perché il problema, scusa, quando io dicevo, sia tu sia Marta avete detto una cosa giustissima, cioè il fatto che comunque la politica si occupa di disabilità, tant'è che ha bisogno anche nelle ultime regionali nel Lazio, Fratelli d'Italia ha presentato un candidato con disabilità. Quindi perché la politica intercetta una serie di bisogni, di quote dello Stato sociale, e quindi fa il gioco proprio. Quando io dico politicizzare, vuol dire politicizzare dal nostro punto di vista, di renderla una dimensione non più assistenziale ma realmente politica, che contempla tutti, perché altrimenti il rischio veramente è quello del... non solo del continuare a fare i ghetti eccetera, ma una dimensione politica, per esempio, che considera il fatto che, ed è per questo che le grandi associazioni in un certo senso falliscono, tra virgolette, o difendono degli interessi noti, perché noi comunque, persone con o senza disabilità, stiamo lavorando, stiamo in un paese, e non è solo l'Italia, e al di là dei governi attuali o precedenti, eccetera, che ha un'impostazione neoliberista, e nell'impostazione neoliberista al massimo ti concedono di parlare di diritti umani, perché è una roba che è completamente staccata dai diritti sociali. E allora anche questo, i mondi della disabilità, oltre ad allargarsi a tutte le condizioni di disabilità, devono anche proporre un discorso politico e sociale che non va nella direzione... È chiaro che 300 euro sono una miseria, ma è il modo, cioè è la privatizzazione dei servizi, sono le condizioni di lavoro di quelli che devono assistere, che lavorano con le cooperative, eccetera. Cioè la dimensione politica è una dimensione che, a partire dalle disabilità, potrebbe affrontare un sacco di temi sociali. E questo forse, dato che, si diceva anche prima, dato che il resto del mondo delle attenzioni politico-sociali la disabilità la tiene sempre un po' lì, o se ne ricorda quando la deve recuperare pro domo sua, allora lo sforzo delle persone con disabilità e dei movimenti delle persone con disabilità è di ragionare, di fare un discorso non solo allargato alle proprie disabilità, a tutte le disabilità, ma fare un discorso allargato a tutte le dimensioni che intercettano la disabilità, che vanno anche nel mondo dei servizi, nel mondo del lavoro, nel mondo anche dell'immigrazione, cioè le cosiddette, anche qua il linguaggio non ci aiuta mai, perché le chiamiamo tutte badanti, perché che termine è? Sono tutte persone straniere, sono tutte persone in cui il tema del genere è un tema decisivo. E allora su questo si possono costruire, però dobbiamo pensare di farlo e non solo cercare di salvarci più o meno ciascuno per conto suo, eliminando la dimensione più complessa e più larga dei temi, che sono temi politici, sociali e culturali a 360 gradi, comprese tutte le dimensioni che abbiamo affrontato. Ah, dico un paio di cose io, però da parte di un operatore, quindi... intanto la questione del limite, no? Quando ne parlavi mi ha fatto venire in mente proprio, io mi occupo soprattutto di scuola, parte educativa, insomma gli educatori qua, non sono educatore ma coordino un servizio educativo, e per esempio molto spesso nella scuola una cosa che viene detta quando si presenta il progetto, il PEI eccetera, è perché noi lavoriamo sulle capacità del bambino. E invece il limite è sempre un po' lo sconosciuto, no? Rimosso, se ne occupa qualcun altro e poi non si può mai fare niente perché non c'è il neuropsichiatra, perché è sotto organico. Però è proprio, come dire, stavo rimuginando sul fatto che è proprio tangibile questa rimozione del limite, che invece c'è, nel senso che parte di quella bambino o bambina è anche una condizione peculiare sua che va affrontata in tutta la sua interezza, no? L'altra cosa che volevo dire è relativa un po' all'ultima parte che avete un po' così articolato sulle prospettive di lotta, chiamiamole così. Quando abbiamo fatto qui, sempre qui in Conchetta, quel festival dedicato ai bambini e alle bambine, tra le altre cose avevamo rispolverato dei documentari di De Seta, che aveva fatto per la RAI, quando la RAI appunto era anche forse un po' più decente di oggi, una serie di documentari sulla scuola, si chiamavano La scuola che cambia, e ce n'era uno proprio dedicato, era nel 79, quindi erano i primi due anni dalla legge del 77. E quello che era molto interessante era proprio il fatto che le esperienze che ancora erano fresche, combattive, no? Di integrazione del bambino, era ancora dentro la logica dell'integrazione più che dell'inclusione, sono due cose un po' diverse, ma adesso non entriamo nel merito, se non finiamo domani mattina, però era interessante proprio la percezione di un'alleanza, no? Tra la mamma del ragazzino, gli insegnanti tutti ingaggiati, perfino la bidella, perfino lo psico, cioè tutti in qualche modo in una dimensione molto collettiva. E probabilmente bisognerebbe anche provare a ricostruire questo rapporto, parlo almeno per quanto riguarda la scuola. Ovviamente erano tempi diversi, quando la scuola era da una parte criticata per il suo ruolo di riproduzione dei rapporti sociali eccetera, ma proprio per questo, scardinandola come strumento di divisione, si poteva modificare anche la società, insomma era investito di molte aspettative dai movimenti di cui si è parlato prima. Oggi questi movimenti non è che ci siano tanto, e infatti uno dei problemi, lo dico dalla parte di chi è operatore eccetera, è che siamo soprattutto l'insegnante, l'educatore, l'operatore, molto cristallizzati nei ruoli, no? Non si mette mai molto in discussione, anche i più combattivi raramente mettono in discussione il ruolo che rivestono all'interno della scuola, ma io parlo della scuola perché è quello di cui mi occupo. Certo, pesano le questioni che dicevi tu, perché per dire la maggior parte degli educatori nelle scuole sono assunti da cooperative, c'è tutta una dimensione di precarietà che hai voglia pensare ai massimi sistemi quando non sai bene qual è la tua busta paga alla fine del mese. Queste erano un po' le cose che così avete un po' sollecitato, cioè mi sono venute in mente. Non so se c'è qualcun altro. Io volevo fare un momento spoiler, giusto per appunto anche ribadire, nel senso che appunto concretamente poi, a parte gli scherzi, quando è che portiamo queste cose tematiche in piazza a parlare, a discutere? Quest'anno, per esempio, appunto in collaborazione con il Disability Pride Network, di quale fa parte, anzi che ha in parte cofondato anche Abbatti le Barriere, rispondendo da Milano, dal nord, insomma, agli appelli con la propria rete, quest'anno appunto noi ritorneremo a Milano con le tematiche belle calde sulla disabilità, soprattutto nel mese di giugno, perché a luglio, poi l'anno scorso avevo fatto il corteo, si moriva di caldo, 4 luglio, cioè il mio compleanno, mi sono regolato, ho fatto un corteo proprio per il mio compleanno, così poi Enrichetta scriverà, questo furbetto Andrei ha fatto il compleanno il giorno dopo, si è fatto il corteo regalo. Però quest'anno appunto lo anticipiamo al 10 e 11 giugno, dove praticamente l'obiettivo è fare un laboratorio anche su 2 giorni, nel senso che il sabato stiamo organizzando dei tavoli, trovare uno spazio dove avere sia uno spazio per una plenaria di apertura e di chiusura, sia appunto uno spazio diurno pomeridiano per organizzare dei tavoli di lavoro. Ovviamente non ne proporremo 18.000 di tavoli, ma ne proporremo 2-3 concreti, in modo tale che le persone già appunto un po' prima si possano iscrivere o comunque venire a partecipare. E l'obiettivo sarebbe creare un documento, dei documenti politici che appunto sarebbero rintracciabili con delle rivendicazioni concrete, perché comunque noi parliamo, ma in verità noi sappiamo alla fine come persone con disabilità cosa vogliamo, cioè, e queste cose qua le dobbiamo riscriverle un'altra volta, riproporre un'altra volta e portarle anche il giorno dopo a rivendicarle in piazza, ovviamente facendole leggere a chi magari si sta avvicinando alla tematica, perché poi mi auguro personalmente che ognuno in sto mondo capisca che un domani disabilità tocca a tutti, quindi meglio prima munirsi e capire, imparare ed essere inclusivi che dopo. Quindi appuntamento sicuramente al 10-11 giugno, segnatelo su tutte le calendarini, eh. Se volete dare una mano all'organizzazione, organizzare tematiche eccetera eccetera, contattatemi, i nostri numeri sono sui volantini che ho lasciato in giro al bar di Abbatti le Barriere dei Disabili Pirata. Passo al momento il microfono, anzi andrei fuori a fumare. Da Houston avete Enrichetta e Valentina, volete aggiungere qualcosa? No, io appunto, poi forse ci salutiamo, credo. Sì, beh, stiamo andando a chiudere, si è fatta una certa. Sì, poi vi lasciamo l'aperitivo, voi che siete lì in presenza. Quello che dobbiamo fare, quindi penso che sia appunto contaminare il più possibile, quindi prima Andrei diceva parlava della mia appartenenza politica, ecco. Dicevo che quello che io cerco di fare è in realtà portare all'interno del partito questi temi, cosa che vi posso assicurare non è facile, però appunto penso sia importante dialogare comunque mantenendo diciamo lo spirito, il proprio spirito, il proprio attivismo, però appunto dialogare con chi effettivamente poi queste leggi le scrive, perché se appunto noi lo sappiamo quello di cui abbiamo bisogno e come dovrebbero essere cambiate le cose, però tocca farlo capire a chi magari ancora non, tra virgolette, non lo sa. E quindi anche il dialogo con le federazioni, che comunque a livello istituzionale sono oggi quelle maggiormente riconosciute, che quindi poi dialogano col governo su quelle che sono le leggi da fare, e che entrano, non solo stanno, diciamo, non tanto vanno fuori dai palazzi del potere, ma anzi entrano in quello che è il Parlamento o Palazzo Chigi e scrivono con loro le leggi. Quindi penso che noi dobbiamo partecipare a questo dibattito, essere da pungolo alle federazioni più rappresentative, che sono state, diciamo, riconosciute dal governo come tali, perché se no appunto resta un qualcosa in cui noi stessi ci chiudiamo e non riusciamo a far arrivare poi le nostre istanze dove devono arrivare. Cioè, bisogna muoversi, secondo me, su più piani, su un piano di attivismo, come facciamo con il Disability Pride, andare a contaminare più luoghi possibile con le diverse condizioni, anche quelle più complesse, quelle che non riusciamo a vedere, quelle con cui magari neanche noi, mi ci metto anche io, spesso non riusciamo a relazionarci come si dovrebbe. Però, insomma, proviamo anche a contaminare le istituzioni e quindi anche i partiti politici. E poi, se non ci sono domande, forse io andrei, perché la linea non è che sia così potente. Va bene, vi invito ovviamente a leggere il libro e anche ad ascoltare soprattutto l'ultimo radiodocumentario, appunto, che si chiama Il confino, disabilità e lockdown, che trovate su Rai Radio 3, dove c'è appunto un mio piccolo lavoro in cui appunto cerco di raccontare quello che è stato il lockdown per le persone con disabilità. Oltre alla mia e alla storia di Sirio, c'è anche la storia di una persona non vedente che racconta tutte le, diciamo, le, il mondo del percettivo che ha perso in quel periodo, perché non essendoci più i suoni, non essendoci più, diciamo, il brusio della vita, una persona non vedente perde i propri punti di riferimento. Quindi una persona che fino al giorno prima era riuscita a avere una vita appunto autonoma, piena, eccetera, da un giorno all'altro si è ritrovata invece sola, appunto in casa, senza avere quei punti di riferimento. E poi, che dire, anche io, diciamo, prendo l'impegno di da una parte di continuare, se possibile, a scrivere la storia del movimento insieme a Matteo, magari ci sentiremo e ci racconteremo appunto il movimento nei prossimi giorni, però anche appunto a raccontare, a descrivere le disabilità più complesse, tutto quello che in realtà non abbiamo fatto fino adesso. È una cosa che dobbiamo fare tutti collettivamente, credo. Va bene, sì, senz'altro anch'io mi associo alla sollecitazione a prendere il libro di Enrichetta, che è molto interessante. Non so se Valentina vuole, se no... Ma io, guarda, non vi rubo neanche un minuto, quindi vi saluto, vi ringrazio, è stato estremamente interessante. L'invito è quello di riuscire a immaginare, visto che abbiamo parlato del dolore, anche, no, che ogni persona dovrebbe aver diritto anche a essere immaginata come desiderante, come aspirante alla felicità. Quindi cerchiamo di costruirla veramente per tutti e tutte, a prescindere dalle condizioni con cui si parte, no, essendo una società capace appunto di immaginare quelli che siamo stati per secoli, no, abituati a immaginare come infelici, invece anche magari felici o comunque desideranti di esserlo. Quindi questo è l'augurio di costruzione politica che mi auguro si possa immaginare nel futuro. Grazie. Grazie. Ok, grazie a voi, grazie a tutti. Noi possiamo chiudere, ci buttiamo sulle lasagne tra poco. Grazie a tutti. Chi vuole fermarsi stasera c'è il film e poi comunque, le iniziative di iniziative ce ne saranno altre sempre su questi argomenti. Grazie. Mi avevi fatto vedere meglio una cosa. Ah, no, prego, vai. No, no, era una cosa buffa così per chiudere. Io ho fatto negli anni 80 5 anni di insegnante di sostegno, parlando di settorialità, no? E a un certo punto io avevo parecchie ore in classe e era una scuola media, quindi durante lo scrutinio finale mi sono permessa, parlavano di un altro ragazzo, siccome io passavo parecchie ore in quella classe lì, mi sono permessa, ho alzato la mano e dare un giudizio. E una collega dice, zitta tu, taci, non c'entra un cavolo, fai l'insegnante di sostegno, occupiti solo del tuo ragazzo. Io spesse volte dimentico di essere una signora e anche se ero giovane ho usato dei francesismi molto volgari.